Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia. A volte ritornano e questa è una di quelle volte. Ciao Matteo. Ciao Fede. Matteo Bustala, Federico Taddia, i Padri Eterni. Eccoci qua dopo un mese di sosta, insomma pronti per ripartire per una nuova stagione. Fede, guarda, mi sei mancato tantissimo, devo dire, proprio una cosa. Ma anche perché è stata un'estate stranissima, no? Da un lato, liberatoria, dall'altro, come immagino per tutti, insomma, siamo stati in ferie, abbiamo portato i figli al mare. Io poi, ti devo dire, ho anche girato particolarmente l'Italia, no? Per andare a fare presentazioni varie del mio libro, e devo dire che ho osservato in generale un grosso rispetto per le regole. Nella grande maggioranza dei casi, persone distanziate, persone attente. In altri casi, molto meno. È vero. No, insomma. Però sai, prima come battuta hai detto mi sei mancato. In effetti poi succedono un sacco di cose, no? Un po' nel rapporto con i propri figli, un po', è vero, il tempo della vacanza, anche il tempo della condivisione, o comunque che ti trovi a vivere situazioni simili con altre persone al tuo fianco, comunque butti l'occhio, ascolti. E io ho raccolto milioni di spunti, no? E mi ha proprio voglia di essere in onda per poterne parlare con te, con i nostri ascoltatori. Insomma, la materia, ovviamente, quella dell'essere genitore, è sempre materia calda, caldissima, ed è quello che facciamo qui ai Padri Eterni. Ogni domenica parliamo di padri, parliamo ai padri, ma non solo, cerchiamo le storie poi che insomma ci aiutino un po' ad avere gli strumenti giusti per diventare padri imperfetti, che poi è un po' il nostro slogan, no? Quello dell'essere perfettamente imperfetti, e anche però per dare un'occhiata, commentare, narrare l'attualità con questi occhiali particolari che sono quelli della paternità. Radio24.it, il nostro sito, da lì potrete scaricare il podcast. Padri Eterni @radio24.it, come sempre, è la nostra mail, ma ci trovate anche nella nostra pagina di Facebook, i Padri Eterni di Radio 24. Ci credevi più che è stato buio l'inverno, troppo duro un inferno, è così immobile la primavera. Ma tu ora dove sei? Dimmi dove sei, che oggi ti porto via e c'è. Una delle canzoni più belle che ci ha accompagnato in questa estate, che è stata davvero un'altra estate, per alcuni è anche stata un'estate complicata, un'estate difficile, un'estate anche non di vacanze, per esempio. No? Un'estate tanti, anche di rinunce, certo. In tanti ci hanno scritto per dircelo, no? Per condividere la fatica anche per tanti figli. E per altre famiglie ancora invece è stata una famiglia di un'estate di estremo cambiamento, e loro hanno la parola felicità nel loro nome, una happy family. Hanno vissuto per 5 anni in bicicletta in un viaggio lungo 25.000 chilometri in Sud America. Sono partiti dalla Terra del Fuoco e sono risaliti, poi il loro viaggio familiare è stato bloccato dal Covid-19, dal coronavirus, e dopo una lunghissima quarantena hanno deciso di rientrare in Italia proprio in queste ore e continuare qui il viaggio di un padre, di una madre, di due figlie in bicicletta, per conoscere poi l'Italia che queste due bambine, Anna e Angela, di fatto conoscono poco, perché vivevano dall'altra parte del mondo. Diamo il benvenuto a papà Sebastien. Ciao Sebastien. Ciao Fede, ciao Matteo. Ciao Sebastien, benvenuto. Buona domenica. Buona domenica a tutti. Ci eravamo già sentiti durante il vostro viaggio e ti sentiamo più vicino, in effetti, no? Sì, ma guarda, ricordavo proprio un attimo fa, è stato 2 anni e mezzo fa, e sì, noi eravamo nell'Amazzonia dell'Ecuador, la prima volta ci siamo sentiti. Ed eccoci di nuovo. 25.000 chilometri, adesso siete in quarantena perché appunto siete appena rientrati. Cosa vuol dire aver fatto 5 anni di papà in bicicletta? Bella domanda. Non sono stati tutti in bicicletta, diciamo che sono... La bicicletta per noi è più che altro il mezzo, ma non è il fine di tutta questa esperienza. È il mezzo che ci ha permesso di stare a contatto con le culture e con tutte le realtà che abbiamo potuto conoscere strafacendo, e soprattutto è stato quel mezzo che ci ha permesso di vivere questa parentesi di vita in maniera splendidamente lenta. Cosa è stato? È stato un'esplosione di tante emozioni, una bella concentrazione da tanti punti di vista, che ci vorrebbe un sacco di tempo per guardarle tutte. In questo momento, come detto, siamo rientrati da pochi giorni dal Salvador, dal Congo del Salvador, dove siamo rimasti bloccati appunto il 12 marzo del 2020 e niente, non c'erano più le condizioni per proseguire il viaggio. E quindi abbiamo preso questa decisione di ritornare, però diciamo con un atterraggio un po' più dolce rispetto ad essere catapultati a casa. Quindi dal Centro America al Centro Italia, ora siamo a Roma in quarantena, anche se negativi al tampone Covid, però rispettiamo le regole e niente. Oh, che bello sentire questa parola, Sebastien, rispettiamo le regole, no? Perché a volte, sai, qualcuno è tentato di essere d'accordo, non essere d'accordo, ma le regole sono regole, valgono solo se le rispettiamo in maniera condivisa. Guarda, mi chiedevo, come ha impattato il lockdown su di voi, sulla tua famiglia? Cioè, già le persone che fanno lavori o vite più comuni delle vostre, è pesato molto naturalmente, ma come lo ha vissuto una famiglia che è abituata a considerare il viaggio il proprio orizzonte naturale? Guarda, noi abbiamo potuto abbiamo avuto una specie di privilegio di vivere questo lockdown in maniera molto speciale, perché eravamo accolti, siamo rimasti appunto in una cooperativa di piccoli produttori di caffè del commercio equo solidale, e una specie di giardino dell'Eden, per cui la nostra finestra sul mondo era questo lago, il lago Coatepeque, e da lì si vedevano le montagne, le cime e le montagne del Guatemala. E quindi la nostra visione era veramente ristretta, a parte i primi giorni di totale incertezza, perché non stavamo capendo cosa esattamente stesse succedendo nel mondo. Noi all'inizio, come italiani, c'era un decreto dove non facevano passare la frontiera italiani, iraniani, cinesi, e quindi ci siamo trovati alla frontiera la sera prima, cioè no, ci siamo trovati a un centinaio di chilometri dalla frontiera la sera prima che chiudessero. Certo. E il giorno dopo abbiamo cercato di proseguire, e per la prima volta nel viaggio mi è scoppiata la ruota davanti, sembrava un segno divino, e grazie a quella ruota abbiamo potuto fermarci nel posto dove ci siamo fermati. Certo. Quasi sembrava un regalo, veramente sembrava un grandissimo regalo, perché non so se avessimo potuto trovare un posto migliore di quello. Certo. Senti, Sebastiano, no, senti, una grande curiosità che ho, no? Cioè, come si fa con la scuola quando si è sempre in viaggio, no? Cioè, nel lockdown anche noi abbiamo scoperto adesso la didattica a distanza. Ma quella a pedali è più difficile. Quella a pedali è più difficile, no? Anche perché non avete stampanti, scanner a disposizione, non avete una linea stabile. Cioè, come funziona? Guarda, per noi da questo punto di vista non è stata una novità, perché il stare insieme, l'educare le bambine e comunque ritrovarsi così, diciamo, ad adattarsi a nuove circostanze, fa parte del nostro quotidiano, per cui da questo punto di vista eravamo ben forgiati e lo siamo ancora. Noi stiamo facendo educazione parentale, per cui riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione in Italia. Quindi abbiamo, a livello pratico, come funziona? Abbiamo un permesso a parte dell'istituto scolastico, in questo caso il nostro di Rimini al Lago, un paesino a nord-est d'Italia, sì, e di Treviso. E, una volta all'anno le ragazze fanno un esame per passare un esame che valuti il loro livello accademico. Certo. Però il vero insegnamento, il vero apprendimento è quello esperienziale, quello che noi chiamiamo world schooling, quello che all'inizio chiamavamo road schooling, dove tipo gli Inca, noi li abbiamo imparati, cioè abbiamo studiato gli Inca a Cusco in Perù, piuttosto che i Maya, in Centro America con i Maya. Ora siamo a Roma, studiamo i romani. Vabbè, Roma. Quindi seguite il programma scolastico, è questo che... Allora, no, noi seguiamo un po', nel senso, è un po' da una parte e un po' all'altra. Sì, ovviamente sì. Cerchiamo di mantenere un buon equilibrio tra questo e quello, nel senso abbiamo degli strumenti per tenerci aggiornati, che sia sì, matematica, sì, che sia quant'altro, però... Insomma è un modo diverso di fare scuola, più esperienziale, più pratico, è proprio, mi pare un bel modo, un bel modo. Sebastian, grazie davvero, ricordiamo la pagina Facebook per conoscere meglio. Happy Family Biocycling. Perfetto, un sacco di foto bellissime che raccontano questo viaggio che non è finito, perché ora c'è una nuova ripartenza. Ciao Sebastian, salutaci tutta la famiglia, grazie, ciao. Le informazioni per chi sta viaggiando non in bicicletta, e poi ancora qua con i padri Padri Eterni. Venezia che muore, Venezia appoggiata sul mare, la dolce ossessione degli ultimi suoi giorni tristi, Venezia la vende ai turisti, che cercano in mezzo alla gente l'Europa o l'Oriente, che guardano alzarsi alla sera il fumo o la rabbia di Porto Marghera. Tu non sai se siamo in Venezia, se Venezia ama te, però sei molto legata a quella città, perché perché non vorresti, ma di fatto la senti tua, quindi sei un documentarista e decidi di raccontare quella città da un punto di vista particolare, no? Lo sta cantando anche Guccini, ciò che mette a rischio questa città, il turismo, l'acqua alta, e quindi vai a fare il tuo lavoro, vai con le telecamere accese e racconti tutt'altra storia. E questa tutt'altra storia è diventato un film documentario di una bellezza avvolgente, cioè non trovo altro aggettivo. Si intitola Molecole, è stato presentato, aperto il Festival del Cinema di Venezia. Il regista è un amico e diamo il benvenuto ad Andrea Segre. Ciao Andrea, buona domenica. Ciao a tutti, buona domenica. Ciao Andrea, benvenuto. Molecole è un film che c'entra tantissimo con il nostro programma, perché tu sei andato là per raccontare Venezia, ma hai trovato ben altro, vero Andrea? Sì, io avevo deciso di provare a capire qual era il mio rapporto con la città e avevo scritto dei progetti, uno per il teatro, uno per il cinema, e insomma stavo iniziando a raccogliere appunti, idee. Però ho deciso di farlo il 22 febbraio, e il 25 è stato annullato il carnevale, poi sono stati chiusi i musei, le chiese, i turisti hanno iniziato a scappare, la città ha iniziato a svuotarsi, io non capivo cosa succedeva, come nessuno di noi capiva e immaginava cosa stava per succedere, e quando ho iniziato a intuire che quello che succedeva era qualcosa di irripetibile, mi sono detto rimani, ho chiamato la mia compagna, figlia piccola, gli ho detto venite anche voi, e mi sono fermato per un mese e mezzo a Venezia, e dentro a quel vuoto, dentro a quel silenzio ho iniziato a intuire che quell'occasione era l'occasione per provare ad aprire un dialogo impossibile ma necessario con mio padre, che invece di Venezia era stato cittadino, che aveva probabilmente capito e vissuto la città come io non avevo mai potuto fare, e così mi sono lasciato andare, ho perso, non mi sono mai detto adesso fai Molecole, non l'ho mai detto dentro me stesso, ho detto semplicemente stai in giro, vedi cosa succede e usa il tuo strumento per raccontare, che è la telecamera, e così ho passato un mese tra l'onirico e il surreale, ma nello stesso tempo anche molto reale, perché tutto quello che era intorno a me stava succedendo davvero, me lo sono sognato purtroppo. Invece a filmare Venezia era stato mio padre, a 16 anni, con una Super 8, insieme a Giuliano, suo fratello maggiore. per gioco, ma con un gusto dell'inquadratura che non immaginavo avesse. Preciso, geometrico, ma in qualche modo anche delicato, quasi doloroso. Ovviamente non me l'aveva mai raccontato. L'ho scoperto solo dopo la sua morte, come tante altre cose. Come questa lettera. E la scrissi 20 anni fa, quando avevo 25 anni. E lui l'aveva conservata nel cassetto del suo studio. Gli scrivevo: tu non racconti mai tantissimo, ma perché tu sei così. Hai sempre detto poche cose. Fa parte dell'essere padre, forse. Andrea, ma c'era bisogno di Venezia per, appunto, per mettersi a cercare nuovamente il rapporto con il proprio padre? Beh, insomma, Venezia è sicuramente capace di raccontare, di toccare delle corde del rapporto tra esistenza e fragilità dell'esistenza, come poche altre città sono capaci di fare, però negli ultimi anni, forse un paio di decenni, faceva fatica a farlo, perché ogni giorno era sommersa, confusa, consumata da migliaia di persone che giustamente hanno voglia di vederla, però in qualche modo non le permettono di parlare. Quindi quando mi sono trovato dentro a quel vuoto, a quel silenzio, ho sentito che poteva dirmi qualcosa, e credo che quello che mi abbia insegnato, che è quello che forse papà nel suo silenzio ha provato a insegnarmi, è proprio bisogno difficile e quasi irrisolvibile di comunicare con il limite stesso della nostra esistenza, da questo destino ineluttabile a cui siamo affidati dall'assurdità del venire al mondo per poi essere destinati a scomparire, è il grande interrogativo della vita, e Venezia è in qualche modo un monumento che l'umanità ha dedicato proprio a questo tema. E sì, l'eterno, il destino ineluttabile di Venezia è tentare di sopravvivere all'inevitabile, no? Ma Andrea, ma infatti guarda, il tuo film è una storia, è la tua storia, è la storia di tuo padre, ma è anche la storia tutta, no? Nel documentario ci sono quelle immagini meravigliose di persone che fanno il bagno in laguna tuffandosi, no? Questo credo che dia anche la misura di quanto è cambiato, per esempio, il livello di inquinamento della città negli ultimi anni, no? E come è stato vivere una città che di solito è affollatissima e improvvisamente deserta, no? C'è un signore nel film che lo dice, no? Che la Venezia è migliore, la laguna migliore è quella d'inverno, quando il flusso turistico cala. Tu ti sei trovato all'improvviso in un inverno primaverile, in un inverno lunghissimo. Cioè, com'è stato? È stato una specie di gorgo spazio-temporale, perché poi l'altra cosa potentissima del lockdown di Venezia, che a differenza di qualsiasi altra città al mondo, Venezia nel momento in cui si è svuotata assomigliava alla Venezia del 600, del 700, cioè, perché sai, anche Roma, Milano, New York erano incredibili, però erano comunque le città di oggi, con le strade asfaltate, con i palazzi moderni, con tutto ciò dell'oggi, è improvvisamente vuoto. Venezia, nel momento in cui si è svuotata dagli uomini di oggi, è ritornato ad assomigliare ad una sua quasi eternità, no? Cioè, e questo è un'occasione pazzesca di dialogo con un tempo indefinibile. Per cui in qualche modo anche papà poteva essere con me, no? Cioè, però ripeto, tutto ciò l'ho poi razionalizzato dopo, cioè, mentre ero lì ho semplicemente tremato per tutta questa sensazione difficile da razionalizzare. Quando vivi una cosa così, se ti fermi a definirla ti perdi, allora sì, ho deciso semplicemente di perdermi. Era molto più ci sono immagini girate magistralmente, ci sono immagini del passato, come, come diceva adesso Matteo, no? Super 8 che hai trovato, Super 8 girate da, da tuo padre. 8 mm, non Super 8. Ah, scusa, 8. È un errore, no, no, ma mica è un errore tuo, è un errore anche mio. Okay. Il cugino di mia madre che ha conservato... Sì. Gli archivi in pellicola di mio padre, uh-huh, perché mio padre prima di morire li ha affidati a lui, e mi ha molto redarguito dicendo che sono un ignorante atavico e dicendo quelli sono 8 mm, non Super 8, il Super 8 è arrivato dopo, quindi mi correggo correggendoti e dichiariamo tutta la nostra ignoranza, quelli sono 8 mm. Fantastico. E poi ci sono le molecole, che non sono solo il titolo del... del film. Le molecole sono, appunto, era l'oggetto di studio di tuo padre, che era un fisico, ma le molecole anche che si attraggono, che si cercano, che si ritrovano anche, e diventa metafora del rapporto dei stessi cittadini in quelle giornate di spaesamento, del rapporto e del ritrovarsi del tuo rispetto a tuo padre. E usi spesso la parola ovviamente, no? Nel rapporto con tuo padre, in questo racconto in prima persona, dai per scontato che lui non ti rispondesse alle tue domande quando entravi nel suo studio, che lui non rispondesse alle tue lettere, che lui non ti raccontasse un sacco di cose, vero? Beh sì, ma a un certo punto, come dire, ci ho fatto il callo, mi sono abituato che quello era, e dentro a questo ovviamente però non ho smesso di provare a interrogarlo, questo ovviamente, non ho smesso di dirmi perché cose papà non poteva dirle, no? Cioè, perché alcune cose un padre non può dire a un figlio, mm-hmm, perché è così difficile dire a tuo figlio siamo destinati a scomparire, come fai a dirlo? No? Cioè, come fai a spiegarglielo, a raccontarglielo? Ciao, io ti ho messo in vita, ma è stata una parentesi rispetto all'esistenza. Cioè, forse aveva ragione. Questo ovviamente contiene anche un dubbio che in fondo ci sia una saggezza in questa scelta. Andrea, chiuderei con un'immagine, ed è quella di tua figlia che piange dopo aver visto il film, e la prima di Molecole, un cerchio che si chiude quasi, o no? Sì, mia figlia grande, perché sì, nel film c'è la mia figlia piccola, uh-huh, che è la piccola Daphne, uh-huh, di 2 anni e mezzo, che ovviamente non è venuta in sala a vedere il film perché insomma complicato, ma invece ho voluto che a fianco a me ci fosse, oltre alla mia compagna, la mia sorella, mia madre, ci fosse anche mia figlia grande, Agnese, che ha 15 anni, e con cui forse devo iniziare ad affrontare i silenzi da padre, insomma. E sì, insomma, alla fine della proiezione a Venezia, che è stato un momento molto bello, è stato un po' difficile mettere insieme gli applausi della sala e le lacrime della mia famiglia, insomma, di mio figlio e mia sorella, insomma, non è stato facile, però nulla è facile. Nulla è facile, insomma. Grazie davvero per questo regalo che hai fatto. Andate a vederlo nelle sale, ma non per vederlo, per le sale, perché in questo momento andare nelle sale cinematografiche è veramente un atto di resistenza, e di dignità e di piacere. E certo, e poi appunto se poi c'è un film, un documentario che è bello e necessario, questo piacere aumenta ancora di più. Complimenti ad Andrea Seger, grazie per essere stato con noi. Ciao Andrea, buona domenica. Un saluto a tutti. Ciao, ciao Andrea. Noi ci fermiamo, è il momento del meteo, la pubblicità, poi ancora qua con i Padri Eterni. Sono le 6 del mattino, buongiorno a tutti. Ma no, presidente, no, proprio lei mi sbaglia orario. 24 mattino inizia alle 6:30 e fino alle 9 su Radio 24 è qua per portarvi fatti, opinioni, analisi e le interviste con ministri, politici, industriali, sindacalisti e non solo, sui temi dei quali discute il paese. Quello che serve per dare il via alla giornata. Ci sarò io, Simone Spezia, con voi dal lunedì al venerdì. Spezia, basta, dai, sei una piaga sociale, su con la vita, dai, su. Eh già, per fortuna che dopo il GR delle 8 mi raggiungerà Paolo Mieli per commentare i fatti del giorno. Vi aspettiamo, ovviamente qua, su Radio 24. Tranquillo Spezia, so che sei bravo. Padri Eterni. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. Ancora buona domenica da Federico Taddie e Matteo Bussola, i padri eterni. Radio24.it, il nostro sito per riascoltare poi il podcast della puntata. Padri eterni at radio24.it, se invece volete contattare la nostra redazione. Ora parliamo di un libro uscito in uscita proprio in questi giorni. Spesso parliamo di libri che parlano di paternità, che parlano di storie anche, no? Storie di padri, storie di figli che raccontano i padri. Il libro con cui riapriamo questa nuova stagione dei Padri Eterni è un libro molto particolare, perché al centro c'è una delle figure protagoniste della storia contemporanea del nostro paese, e stiamo parlando di Giulio Andreotti. Per Solferino è uscito il libro I diari di Andreotti, a cura dei figli Serena e Stefano, e abbiamo il piacere di avere qua con noi Stefano Andreotti. Buona domenica, Stefano. Buona domenica, ricambio volentieri. Grazie per essere con noi. Beh, Stefano, la prima è quasi una domanda d'obbligo. Cosa vuol dire avere avuto Giulio Andreotti come padre? Beh, certamente è un nome che soprattutto un po' di anni fa era veramente molto molto molto noto. Sicuramente la nostra però è stata una famiglia davvero normale, nei limiti del possibile. Abbiamo vissuto, io e i miei fratelli, siamo in quattro, e la mia madre quando era ancora viva, una vita come tanti, con certo questa particolarità di un cognome davvero molto molto o famoso o ingombrante a secondo delle circostanze. Stefano, ma che tipo di padre era Giulio Andreotti? Cioè, era un padre che nonostante tutto, nonostante i numerosi impegni, riusciva a essere presente? Era un padre assente? Era un padre affettuoso, severo? Come era nell'intimità? Allora, era, diciamo, dal punto di vista della quantità, certo non era presentissimo, aveva un ritmo di vita davvero, di vita lavorativa davvero pesante, per cui il tempo che lasciava per la famiglia non era certo molto, ma questo l'ha recuperato sempre in tutta la nostra vita con una attenzione e una qualità del rapporto straordinario. Era un padre affettuosissimo, al di là di quello che si può immaginare magari in un'immagine che ogni tanto viene, o abbastanza spesso viene data. Era molto affettuoso, il contrario del severo, non rimproverava mai nessuno di noi figli, ci lasciava, diciamo, sbagliare, ma sempre scegliere da soli. Chiaramente faceva presente se non, la cosa non gli piaceva, però era in questo apertissimo ed era veramente affettuoso e calorosissimo, ancora di più quando ha avuto poi i nipoti. Con i nipoti, come molti nonni, ha perso completamente, diciamo, la testa. Quali sono i diari che avete aperto in questo I diari segreti e cosa avete scoperto che non sapevate di vostro padre? Dal punto di vista, chiaro, l'immagine di nostro padre più o meno, questi sono i diari. Intanto lui scriveva il diario da sempre, quindi sì. L'ha iniziato a scrivere negli anni, mi pare nel 44, e li abbiamo fino al 2009. Questi che adesso siamo riusciti in qualche modo a rimettere in piedi con un lavoro molto pesante sono i diari degli anni 80, quindi che vanno da metà 79 a metà 89. E certamente non è che cambiamo il giudizio su quello che è stato nostro padre secondo il nostro ricordo, ma quello che è sorprendente è la quantità di rapporti, di fatti, di collegamenti, soprattutto nel mondo fuori dall'Italia, una marea di fatti, di accadimenti che certamente in buona parte non conoscevamo. Stefano, ma tra l'altro la decisione di rendere pubblici questi diari, no, è stata anche una decisione non solo vostra, ma anche sua in un certo senso, no? Ma perché sicuramente. No, in una lettera leggevo, vi ha proprio lasciato scritto di fare dei suoi diari ciò che vi pareva più opportuno, purché lui, non nuocessero a chi, bravo, che sia. Cioè, a chi che sia, questo termine è un po' curioso, un po' antiquato. In un primo, lui ha lasciato delle lettere da aprire postmortem. E una delle prime c'era scritto di bruciare tutto e di non darne alcuna pubblicità, però anche lui in vita aveva trasgredito questa sua prima idea, perché aveva pubblicato comunque i diari del periodo 76-79 e poi degli spot di altri anni. E in una delle ultime lettere invece proprio espressamente lascia, diciamo, questa quantità enorme di documenti a noi figli, appunto con la voglia quasi che ne potessimo anche pubblicare, appunto con questa limitazione di non ce l'ha nessuno. Era una persona anche molto ironica, era anche un padre ironico? Sicuramente, lui ancora adesso viene ricordato, no? Vengono ricordate tantissime delle sue battute, delle sue frasi, no? Ce ne sono davvero tante. E quello che era, diciamo, fuori dalla famiglia, ma in famiglia anche con noi, si scherzava sempre e ci si scambiava, soprattutto da parte sua, battute di ironia su tutto e in ogni occasione. No, ma la cosa bella di questo libro poi è che racconta anche, direi soprattutto, no, l'Andreotti incredibilmente senza incarichi politici, ma certo, che nonostante questo non, come dire, non lesinava consigli a chi gli chiedeva, aveva proprio un atteggiamento, mi verrebbe da dire, anche nei confronti degli amici, quasi paterno. Ma guardi, io credo che, tra l'altro, il motivo poi che ci ha spinto, noi questi diari li avevamo chiaramente conservati e ogni tanto davamo un'occhiata per vedere qualche episodio, non ci eravamo mai poi messi a fare un lavoro così di ricostruzione in un periodo così lungo. Abbiamo iniziato a farlo per un motivo, una nostra ricerca su un episodio del 1980 e lui dal 79 aveva lasciato la presidenza del Consiglio a Cossiga e non aveva un incarico di governo, che per lui è stato, diciamo, un momento, 4 anni davvero molto non frequenti, no? Perché ha sempre fatto parte o quasi sempre del governo, e posto in questi 4 anni è in una marea di incontri politici, non politici, non so, Agnelli, non dico quotidianamente, ma mensilmente o bimensilmente lo andavano a trovare, e lui aveva rapporti con politici di tutto il mondo, con agenti dello spettacolo, della finanza forse un po' meno, dello spettacolo, era veramente un punto di riferimento per tantissime persone. Chiaramente anche nel mondo, diciamo, religioso, il Vaticano, ma non solo il Vaticano intendendo il Papa o che allora era Giovanni Paolo II, cardinali, ma anche i più semplici monsignori, i pretini, le suore. Davvero è incredibile la quantità di, la ragnatela, diciamo, di rapporti che aveva. Ci ha detto appunto che era un padre normale, no? Questa parola. Certamente, la nostra famiglia è stata, nei limiti del possibile, una famiglia normale. Cioè, ha tenuto a che noi facessimo una vita normale, ognuno facesse la sua attività professionale, prima gli studi, poi l'attività professionale, senza, diciamo, mai metter naso nella politica. Ma Stefano, c'è un ricordo, un'immagine di Papa Giulio proprio nella sua normalità, un ricordo che porta con sé, una cosa che... Beh, è la cosa che portiamo sia io che i miei fratelli, sopra, diciamo, questo libro lo abbiamo curato io e mia sorella Serena. E i ricordi incredibili sono i pranzi. Noi avevamo questa abitudine di andare a mangiare a casa dei miei, a pranzo sia la domenica che i sabati, e chiunque di noi fratelli e anche, diciamo, poi dei nipoti stessa a Roma, con molto piacere, non è un obbligo, andavamo a colazione. E i pranzi sono veramente dei ricordi straordinari, perché nei pranzi si parlava di tutto, anche diciamo un pochino si parlava di quello che accadeva nel mondo della politica, ma si faceva diciamo dei grandi incontri a 360 gradi su tutto quello che era accaduto nella settimana. Insomma, era un bel ripasso sicuramente di attualità e storia contemporanea, non ne ho dubbi. Certamente, diciamo, poi questo libro penso che sia al di là, se si legge con degli occhi con degli occhi molto aperti e disincantati, al di là di una conoscenza migliore di chi è stato mio padre, ma penso che sia per chi ha interesse davvero una lunga rincorsa, no? In 10 anni molto importanti, no? Della storia italiana e del mondo, visti dagli occhi di uno che è stato sicuramente testimone privilegiato, ma molto spesso anche protagonista di tanti fatti. Assolutamente. È un pezzo, diciamo, di storia rivista appunto con questi occhi particolari, direi. I diari segreti di Giulio Andreotti. Grazie davvero a Stefano Andreotti per essere stato qua con noi oggi ai Padre Eterno. Grazie. Buona domenica. Ci grazie fermiamo il traffico, poi torniamo subito dopo. Padri Eterni, ripasso in Italia. Padri e treni, Matteo, no, non è un errore, non è un errore, anche se è bello perché è un anagramma di Padri Eterni, se ci pensi, no? Padri e treni. Inauguriamo infatti oggi questa nuova rubrica, ogni settimana prenderemo il treno e ripasseremo in Italia, nel senso che vi daremo suggerimenti e idee di viaggi in famiglia, dove i nostri figli possono ripassare ciò che hanno studiato a scuola, possono toccare con mano alcune delle nozioni appunto che hanno trovato sui libri, perché l'Italia ti permette per fortuna tutto ciò, è un grande libro aperto e tantissime pagine di questo libro aperto si possono proprio raggiungere prendendo il treno. Per fortuna la nostra rete ferroviaria ha una diffusione, no? In tutto il paese, e c'è quindi la possibilità di veramente avere tante mete culturali, ma a misura di ragazze e ragazzi. Oggi iniziamo prendendo il treno, la nostra fermata è quella di Sasso Marconi in provincia di Bologna, e lì possiamo andare a conoscere Guglielmo Marconi e tutto ciò appunto che c'è legata a questa bellissima figura. Andiamo quindi al Museo Marconi e lo facciamo con la direttrice Barbara Valotti. Ciao Barbara, buona domenica. Ciao, buona domenica a tutti voi e agli ascoltatori. Beh, insomma, Sasso Marconi, Guglielmo Marconi, la radio, non solo l'oggetto radio, ma tutta la scienza che c'è attorno alla radio, prima e dopo, diciamo, degli studi proprio di Guglielmo Marconi. Cosa può ripassare, cosa può apprendere un ragazzo o una ragazza entrando nel vostro museo? Beh, innanzitutto una precisazione proprio su questo, nel senso che entra nel luogo in cui è nato il wireless, che in un certo senso è anche di più della magnifica radio su cui voi appunto, nella quale voi lavorate, che credo amiamo davvero tutti, però c'è qualcosa di più perché la comunicazione wireless che ha inventato Di Marconi era la radiotelegrafia, e oggi è diventato tanto di più perché qualsiasi sistema radiomobile, insomma, e tanto altro è comunicazione wireless. Ecco, lì si ha le origini e credo che questo sia già un ottimo punto di partenza. E poi naturalmente si può entrare nell'aspetto più biografico di questo personaggio, come hai detto tu, insomma, assolutamente affascinante, complesso, e quindi c'è tanto di biografico e di storia a cavallo fine 8 e primi decenni del 900, e poi c'è l'aspetto naturalmente tecnico-scientifico, e lì sull'elettromagnetismo ci si può assolutamente sbizzarrire, e quindi so che suona come parola forse tremenda, non so, in certi momenti scolastici, ma in realtà è un magnifico viaggio scientifico. Barbara, ma che strumenti può dare, diciamo, no, studiare Guglielmo Marconi oggi ai nostri figli? E cosa ci puoi dire anche su quella rivalità storica tra Marconi e Tesla? Ci puoi dare un'informazione per i nostri ascoltatori più giovani soprattutto? Assolutamente. Allora, cosa ci può dire? Fatemelo dire, perché Marconi, essendo un nome così, così forte, ha avuto una carriera così lunga, è spesso anche un po' immaginato solo, come dire, non come giovane, e pochi sanno che invece è stato un ragazzo giovanissimo, appassionato di esperimenti elettrici, che sogna di fare l'inventore, che tra i 19 e i 20 anni e poi conclude, diciamo, gli esperimenti lì nella Villa Grifone di Pontecchio Marconi, quindi nel comune di Sasso, a 21 anni, quindi fa l'invenzione. E a 27 anni e mezzo di impresa transatlantica, 35 vince il Nobel. Insomma, c'è tanto di parte giovanile, ma soprattutto il sogno, la determinazione, il coltivare tantissimo una passione, credere in se stessi. Secondo me sono tutti elementi estremamente interessanti per un ragazzo di oggi. E poi vengo all'altra domanda, completamente diversa. Questa rivalità, posso dire che è, come dire, che è meno importante di quanto si sia cavalcata, però, ok. Esatto, però fatemi dire questo, nel campo della radio, o meglio, chiaramente i due personaggi sono dei giganti della scienza e della tecnologia, molto diversi a livello di carattere, tanto più, fatemi dire, diciamo Marconi più rigoroso, monotematico, quell'altro invece molto più eccentrico, su questo non c'è dubbio, ma se veniamo al discorso radio, mi piace dire che quando si parlava di wireless, Marconi pensa ad inviare ad inviare comunicazione, insomma, quindi segnali per comunicare, e Tesla invece quando parla di wireless pensa molto più all'energia. Sono due tematiche molto più diverse di quanto non si pensi, quindi mi viene da dire non è, Marconi non ha rubato nulla a nessuno, poi so che però insomma piace anche invece ricamare e andare oltre, però se ci si guarda bene è un bel po' diverso, quindi molto diversi, sicuramente si sono in qualche modo incrociati, soprattutto sulle pagine dei giornali, eccetera, e è bellissimo il confronto, ma molto più sereno di quanto delle volte non si sia costruito. Certo. E Barbara, appunto, lo hai detto, no? Lì si è nel luogo, quindi ragazzi e ragazzi sono proprio nel luogo in cui tutto è iniziato, quindi un viaggio nella storia, però appunto l'occasione di approfondire e di toccare ciò che è la scienza, ciò che è la fisica attorno alla radio, e anche credo con attività pratiche dove i nostri ragazzi possono anche sperimentare. Ecco, esatto. Cosa possono ripassare di fatto lì? Allora, innanzitutto su degli interattivi, proprio fanno i primi esperimenti di Marconi, ovviamente su degli apparati interattivi, ma riproducono cosa inviare il codice Morse, cosa riceverlo e anche dei passaggi successivi. Poi c'è anche invece una parte di approfondimento tecnico che posso dire che è amatissima soprattutto dalle scuole superiori, poi in realtà anche le scuole medie la gradiscono, i bambini e le bambine della scuola elementare sono comunque affascinati, diciamo così, ci sono basi di elettricità, quindi diciamo elettrostatica, elettrodinamica, come dicevo l'elettromagnetismo e la radiotecnica. Ho messo lì quattro tematiche enormi che chiaramente andiamo a approfondire con un tecnico a seconda anche di chi abbiamo davanti, perché credo che, come posso dire, la suggestione, il percorso, l'andare nella soffitta laboratorio, vedere la famosa collina dei Celestini, il primo ostacolo naturale superato appunto negli esperimenti di Marconi, quindi con un segnale radio, eccetera, sono per tutti. Poi invece ognuno lì può approfondire un po' anche quello che vuole, nel senso rispetto alle competenze che ha o vuole approfondire. Certo, e poi ci sono i padri che tornano bambini per l'occasione, sicuramente, vero? È un incontro magnifico, perché su quelle origini, come dire, sulle origini e sull'evoluzione ci intendiamo tutti, ecco, per cui non c'è proprio differenza di età. Io dico sempre che lì si divertono davvero a bambini anche di 3-4 anni, lo giuro, lo garantisco, e siamo arrivati a delle età davvero, davvero notevoli. Fatemene dire uno su tutti, uno delle persone che ci ha veramente fatto venire i brividi è stato Martin Cooper, l'inventore del telefonino, è stato ospite nostro due volte all'alba dei 90 anni e l'emozione che ha provato Martin Cooper alla finestra del laboratorio di Marconi ci è veramente rimasta dentro, è successo nel 2013, nel 2018, perché insomma anche lui non ha scherzato a rivoluzione, ma lui ci ha detto è davvero tutto partito da qui, non è che abbia priorità Martin Cooper al Museo Marconi, speriamo, si emozionino tutti, però lo volevo dire che possiamo andare anche in là con gli anni, sia all'indietro che in avanti, diciamo così. Museomarconi.it, Sasso Marconi, quindi la fermata di Sasso Marconi è la prima stazione che abbiamo visitato con la nostra rubrica Padri e Treni, e ringraziamo Barbara Valotti, direttrice del Museo Marconi, per essere stata con noi. Ciao Barbara, buona domenica. Grazie a voi, vi aspettiamo. Tempo scaduto, è il momento dei saluti. Un grazie a Danilo Di Trani per l'assistenza e per aver scritto con noi, come sempre, la puntata. Un grazie ad Andrea Roccabella oggi alla parte tecnica. Ciao Matteo. Ciao Fede. Beh, è proprio il caso di dire una prima puntata col fischio. Bravo. Il nostro grazie va a tutti voi. Vi aspettiamo domenica prossima, come sempre, alle 11. Radio24.it per scaricare il podcast. PadreEterni@radio24.it invece se volete contattarci durante la settimana. Ciao. Ciao. Per le aziende professionisti, il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.